veniamo al volo dei topolini. La settimana scorsa avrete letto sui vostri quotidiani che sono stati geneticamente modificati alcuni topi per non provare paura, e difatti così è stato. Ovviamente nella vita quotidiana non conviene, perché uno, se non prova paura, poi affronta i rischi senza rendersi conto di quello che fa. Noi abbiamo voluto vederci un po' chiaro con un personaggio che quasi ci vergogniamo a presentarlo, perché è Mario Capecchi, del Capecchi Lab allo Howard Hughes Medical Institute dell'Università dello Utah, uno degli scienziati più famosi del mondo. Sul sito delle che vi rimandiamo al suo, e basta che guardiate l'elenco dei premi principali che ha ricevuto, e quello che ha scoperto il modo di inserire in una cellula un gene corretto e così di ottenere l'effetto desiderato nell'organismo o nell'organo appunto che è stato prescelto, e proprio grazie a lui si è potuto appunto togliere la paura ai topolini. Comunque sia, lui ha passato una vita a identificare geni umani e la loro funzione, adesso vuole scoprire le basi genetiche, biochimiche, eccetera, dei disturbi psichiatrici dei topi. E perché ha scelto i topi? I geni dei topi sono al 99,9% simili a quelli umani, e quindi ogni volta che modifichiamo un gene in un topo, prevediamo che l'effetto osservato rispecchierà quello nell'essere umano. Perciò possiamo inferirne la funzione del gene, non solo nei topi, ma anche negli esseri umani. E questo vale sia quando parliamo di geni che coinvolgono la fisiologia, sia per i geni che coinvolgono i comportamenti. Però il cervello dei topi è diverso. Per esempio ha la corteccia liscia, mentre la nostra è piena di circonvoluzioni. È vero. Il loro cervello è molto più piccolo, quindi non ci aspettiamo che un topo sia intelligente come noi. Ma per tanti comportamenti innati, cioè comportamenti che non vengono appresi perché sono già codificati nel DNA, per esempio il fatto di pulirsi, di provare paura, di avere fame, nel caso di questi comportamenti più primitivi, insomma, ci aspettiamo che siano identici negli esseri umani e nei topi. All of those very more primitive behaviors, we anticipate those to be identical in humans and mice. Lei parlava di paura, ma i topi sono molto più pavidi di noi di natura. Yes. Sì, sono pavidi, e c'è anche il fatto che sono attivi soprattutto di notte invece che di giorno. D'altro canto, devono fare molte delle cose che dobbiamo fare anche noi. Anche noi dobbiamo essere capaci di valutare un pericolo e prendere la decisione di fuggire o di affrontarlo. Dobbiamo capire quando abbiamo fame o sete e provvedere di conseguenza. E dobbiamo anche pulirci, un'attività che è condivisa da tutti gli organismi. Certo che osservare i comportamenti di un topo e dedurne che ha disturbi della psiche sembra un tantino difficile, ma come si fa? Per i comportamenti, per esempio, esistono già alcuni test comportamentali, ma credo che sia necessario svilupparne di nuovi. Altri mezzi esistono già con gli esseri umani. Si può praticare l'analisi dell'imaging funzionale. Si può osservare il cervello, vedere quali aree sono attive e quali sono inattive in reazione alla vista di una certa immagine o in reazione ad altre attività. In futuro speriamo di poter ottenere e interpretare i risultati dell'imaging sul cervello del topo e a partire da lì trarne inferenze su cosa stia pensando il topo. È un esempio. Lei sta pensando di infilare i suoi topi in una macchina per l'imaging? Sì, per la RMI o nello scanner per la tomografia assiale. Fare una risonanza magnetica funzionale, insomma. Osservare quali aree cerebrali hanno un'attività elevata nel topo, paragonarle con le configurazioni cerebrali che osserviamo negli esseri umani e dedurne quello che accade nel cervello del topo. Non c'è solo l'imaging. Immagino che anche nei topi l'attività cerebrale produca una cascata di reazioni biochimiche. Oh sì, possiamo anche far ricerca sui neurotrasmettitori e sui neurorecettori. Tutte le analisi biochimiche si possono fare sia per i cervelli dei topi che per quelli umani. Ma lei è un genetista. Presumo che si occupi anche della componente genetica delle turbe psichiche dei suoi topi. Sì, è così. Solo che di recente ci stiamo concentrando di più sul comportamento e anche sullo sviluppo cerebrale, perché penso che le due cose risulteranno collegate. Secondo me, risulterà che le funzioni cerebrali dipendono da come il cervello si è formato. Comunque, un problema lei ce l'ha. Se io sono depressa, glielo posso anche dire, ma un topo no. Giusto. Con gli esseri umani possiamo parlare, chiedere come stanno, valutare attraverso la comunicazione quali sentimenti o emozioni provano, tutte queste cose. E con i topi, no. D'altronde sono certo che anche i topi possono essere depressi. La depressione è molto diffusa tra gli esseri umani. Circa il 15% delle persone soffre a un certo punto di depressione acuta. E negli esseri umani e nei topi ci sono sintomi comuni, per esempio l'inattività. Se si è depressi, le attività alle quali ci si dedica di solito diminuiscono palesemente. Così possiamo utilizzare un indice di attività per misurare se un topo è depresso o meno. E ci sono altri sintomi comuni alle due specie che ci possono servire per fare correlazioni e dire se siamo in presenza di depressione o no. Secondo me dobbiamo cominciare a osservare con maggiore attenzione i comportamenti dei topi per poi fare queste correlazioni. I topi di laboratorio sono allevati per essere tutti uguali, invece si sa che il cervello umano ha una plasticità individuale e varia con l'ambiente. Non è una difficoltà in più per le sue ricerche? Giusto, abbiamo ceppi di topi tutti imparentati, molto definiti. Penso anch'io che ci sia una grande interazione tra l'ambiente esterno e i geni di cui siamo portatori. Eppure, se lei studia gemelli umani identici, scopre che hanno spesso delle preferenze comuni non soltanto per certi colori, ma anche per certi modelli e persino in politica. Anche se sono cresciuti in ambienti completamente separati, magari in politica la pensano allo stesso modo. Ci sono innumerevoli ricerche sui gemelli omozigoti, allevati in ambienti diversi, che si comportano in maniera molto simile allo stesso. Credo che nel comportamento ci sia una fortissima componente genetica, ed è questa componente che cercheremo di scoprire. Mario Capecchi, grazie. Lei è stato molto paziente e gentile, non vorrei esagerare, ma è vero, come scrive Karina Dennis su Nature, che per queste sue nuove ricerche lei ha assoldato un agente della CIA? Agente forse è un po' un eufemismo. Da molto tempo la CIA usa programmi informatici per interpretare il comportamento delle persone filmate a scopo di sorveglianza. La nostra idea è di usare programmi simili per i topi, invece di doverli osservare dal vivo, guardarne la videoregistrazione e interpretare quello che stanno facendo. Magari può farlo un computer, magari può seguire i movimenti del topo e sapere quando va a bere o quando si pulisce il pelo. Ci siamo procurati questi programmi sviluppati per conto della CIA e li stiamo aggiustando per sorvegliare il comportamento dei topi, così da automatizzare la raccolta dei dati e la loro interpretazione. Buon lavoro, as they say in Italian. Grazie, bye bye.